Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Giovani e autotrasporto. Una coppiata che potrebbe sembrare inusuale. Eppure questi due mondi apparentemente distanti da qualche settimana sono molto vicini. È partito infatti il progetto Giovani Conducenti, lanciato dall'Albo degli Autotrasportatori assieme ad altri partner del settore per avviare la nuova generazione di autisti di mezzi pesanti attraverso un percorso formativo che offre la possibilità di acquisire tutti i titoli necessari a svolgere questa professione e di fare pratica sul campo. Il progetto in poche settimane ha registrato più di 2.500 adesioni. L'iniziativa si svolge intanto anche nelle scuole di trasporti e logistica italiane, con un tour da nord a sud che racconta agli studenti un settore in piena evoluzione. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E oggi ci troviamo a Palermo, una tappa importante, perché stiamo presentando il progetto Formazione Giovani, il progetto voluto dall'Albo degli Autotrasportatori che consentirà a oltre 1.000 giovani italiani di diventare autisti professionisti. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti, vi presento il primo, che è Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE. Grande accoglienza a Palermo, un grande calore da parte dei giovani siciliani nei confronti di questo progetto. Quali sono le aspettative dei costruttori? Ma dunque, le aspettative dei costruttori sono direi positive, perché da questo punto di vista l'abbiamo lanciato tutti insieme questo progetto, che è partito alcuni mesi fa con delle speranze ma non avevamo ancora delle certezze. Abbiamo visto che oggi il progetto sta prendendo piede, questo ci rende molto orgogliosi, perché i giovani hanno bisogno di occupazione e al netto delle parole, con piccoli fatti che si facciano veramente in modo determinato, possiamo avere dei buoni successi. Quali saranno le prossime tappe di questo progetto, che è un progetto itinerante? In questo momento praticamente viene presentato un po' in giro in tutta Italia. Ma sì, noi cercheremo di svilupparlo ancora di più, cercheremo di, insieme sempre con la collaborazione dell'Albo, perché ringraziamo ancora l'Albo di questa bella cosa, ma abbiamo bisogno che i trasportatori adesso aderiscano affinché questi ragazzi possano essere nei prossimi mesi poi presi veramente nelle aziende. Le associazioni di categoria e i trasportatori ci devono aiutare a portare questi ragazzi veramente sul posto di lavoro e quindi a diventare conducenti di veicoli industriali. Con Thomas Baumgartner, presidente di Anita, presente qui a questo incontro di Palermo, cerchiamo invece di fare un po' il punto sul ruolo delle associazioni di categoria in questo progetto del Ministero, tra l'altro voluto proprio dalle stesse associazioni italiane per le imprese italiane. Noi come associazione di categoria da tempo ci rendiamo conto che il conducente per i trasporti, per le automezzi pesanti, è un'attività che sta scomparendo, perché i giovani non si affacciano a questo mercato, a questa professione, e per questo siamo stati tra i promotori come Anita proprio per insistere affinché l'Albo assieme anche all'UNRAE portasse avanti questo progetto, che per noi è molto valido. Quale potrebbe essere lo sbocco per questi giovani? C'è davvero una richiesta così forte di autisti come emerge da queste prime settimane di lavoro? Ma prima di tutto bisogna sapere che il mestiere dell'autista è cambiato e starà cambiando ancora molto di più nel futuro, cioè non è più un lavoro sporco, pesante come magari qualcuno se lo immagina, ma ormai l'autista diventa come il pilota di una macchina altamente sofisticata, una macchina tecnologicamente all'avanguardia, e l'autista deve essere quella persona che riesce a controllare e supervisionare tutte le tecnologie che oggi ne troviamo nei mezzi pesanti del futuro. Per questo ci vogliono nuove figure, giovani che hanno anche la predisposizione a capire le tecnologie, a essere padroni di queste tecnologie, e noi riteniamo che sia necessario che queste persone vengano istruite. E c'è sicuramente un interesse da parte dei giovani, l'Albo ha aperto il Click Day alla ricerca di 1.000 giovani e dopo poche ore le domande erano addirittura 2.500, quindi molto oltre le aspettative, segno di un interesse forte da parte dei giovani italiani. A noi fa piacere che c'è questo interesse, e noi possiamo solo dire che siamo convinti che il mestiere del conducente è un mestiere che ci sarà sempre anche in futuro, l'autotrasporto delle merci comunque ci sarà, la mobilità delle merci continua ad aumentare anche con le nuove informazioni mondiali al tempo reale, con l'e-commerce la mobilità aumenta, il trasporto delle merci necessita e soprattutto l'autotrasporto, perché dobbiamo sempre considerare che abbiamo anche le altre modalità come la nave, il marittimo o il ferroviario che è destinato a prendere buona parte dei trasporti a lungo tragitto. E a proposito di queste giovani leve, qui al Centro Opere Nazionali Salesiane di Palermo c'è anche un'esposizione di veicoli industriali, ovviamente subito occupata e che ha suscitato la curiosità di questi giovani aspiranti autisti. Li ha ascoltati per noi il collega Andrea Ferro. Andrea. Federico. Andrea. Di fronte a questi camion vedi un futuro? Questo sicuramente è una grande opportunità anche per noi, per scoprire il mondo dei mezzi pesanti e anche del camionista. Cosa ti affascina di questo mestiere? Viaggiare, girare per il mondo e conoscere tutti i vari posti del mondo. È un lavoro duro? Sì, certo che è un lavoro duro, perché la figura del camionista è un lavoro pesante, perché guidare non è tanto facile, restare alla guida di un camion è... Cioè, quindi siete consapevoli che sarebbe una prospettiva occupazionale interessante ma densa di sacrifici? Questa sicuramente, perché guidi anche con un mezzo di una certa importanza, perché devi rispettare il tempo, gli orari e anche la meccanica qui è molto importante. Sembrano astronavi. Sì. Sì, sembrano astronavi perché c'è molta tecnologia su un camion, su uno Scania di questo. La meccanica di questo è molto accurata, anche come elettronica, meccanica, siamo a livelli di tecnologia molto avanzati. Per questo è anche uno stimolo in più. Viaggiare su un camion di questo con tanta tecnologia così ormai siamo più avvantaggiati. Quindi sarà il vostro lavoro? Pensiamo di sì. Se è possibile. Speriamo. Sì. Speriamo per il nostro futuro di più. Sì, questo è il nostro lavoro. E per fare il punto sull'andamento di questa campagna legata alla formazione dei giovani, Andrea Ferro ha anche ascoltato la presidente del Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori, Maria Teresa Di Matteo. Presidente Di Matteo, è l'ora di fare un primo bilancio dell'avvio di questo grande progetto a favore dell'occupazione e a favore, diciamo così, anche dell'autotrasporto nel suo insieme. Il bilancio mi sembra assolutamente positivo. Oggi è l'ultimo giorno del Click Day, sono arrivate circa 2500 domande, mi sembra che sia un numero abbastanza importante. Probabilmente non ce la faremo a finanziare tutte le richieste, ma insomma questo ci spinge a continuare in questo progetto e a cercare di portarlo avanti ancora. L'obiettivo è in qualche modo di renderlo almeno per alcuni anni strutturale? Di comunque cercare di coprire la domanda, mi sembra l'ideale, cioè l'incontro tra domanda e offerta mi sembra l'obiettivo fondamentale da ricercare. C'è molto interesse da parte dei ragazzi, c'è altrettanto interesse da parte delle imprese di autotrasporto e questo mi sembra assolutamente importante. Diciamo anche un po' al di là delle aspettative. Anche al di là delle aspettative, perché dagli studi anche fatti a livello europeo viene fuori e non c'è richiesta. Tant'è vero che la maggior parte degli autisti non sono italiani, non sono così anche in Germania e in Francia, e invece da questa iniziativa mi sembra che ci sia un interesse che si evince non solo dalle richieste che sono pervenute per avere la CQC, ma anche dell'interesse nell'ambito delle scuole, dove i ragazzi mi sembra che si stanno avvicinando a questo progetto con entusiasmo, con voglia di sapere. Diciamo che cambia anche un po', almeno questa iniziativa contribuisce a cambiare anche un po' la percezione dell'immagine dell'autotrasporto. Chiaramente l'autotrasporto è sempre più strutturato, è evidente che anche le flotte degli autisti devono esserlo, anche perché il tema della sicurezza stradale è un tema assolutamente centrale. Sentirsi parte di un progetto importante, significativo a livello di sistema mi sembra una cosa che può motivare moltissimo. E anche penso da parte dell'opinione pubblica questo contribuisce ad una percezione, ad una valutazione diversa, ad un impatto diverso rispetto al mondo camion nel suo insieme. Penso di sì, d'altra parte avvicinarsi a questo mondo fa parte dell'attuale sistema di trasporto. Mi pare che di capire che il grosso delle merci sono trasportate con i camion nulla toglie, anzi sicuramente centrali sono la ricerca dell'intermodalità, lo spostamento delle merci su altre modalità, ma comunque diciamo una fetta di mercato comunque diciamo è anche legata al mondo dell'autotrasporto. Bene, termina qui anche questa puntata di Container, registrata eccezionalmente a Palermo in occasione della presentazione del progetto Formazione Giovani. L'appuntamento con la nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.